Libro quarto. Per questi 9 anni, dai 18 ai 27 di mia vita, fui sedotto e seduttore, ingannato e ingannatore nelle più varie passioni, apertamente, per mezzo delle cosiddette discipline liberali, occultamente, nel mentito nome della religione, superbo nel primo caso, superstizioso nel secondo, vano in entrambi. Lì, inseguendo l'inane miraggio del successo popolare, fino all'applauso teatrale, alle gare poetiche, ai certami per corone di fieno, alla fatuità degli spettacoli, alla sfrenatezza delle passioni, qui, invece, cercando di purificarmi da tale sozzure, col portare a quanti erano in fama di eletti e di santi, i bocconi con cui, nell'officina del loro ventre, potessero fabbricare per noi angeli e dei capaci di liberarci. Ci credevo davvero. E lo mettevo in pratica assieme ai miei amici, da me e con me sedotti. Ridano pure di me gli arroganti che tu, Dio mio, non hai ancora salutarmente abbattuto e annientato. Ma io ti confesserò a tua lode le mie infamie. Consentimi, ti prego, e concedimi di ripercorrere col ricordo presente i contorti percorsi del mio errore passato ed immolarti una vittima d'esultanza. Cos'altro sono io, infatti, senza di te, se non una guida per l'abisso? O cos'altro sono, nei miei momenti migliori, se non uno che succhia il tuo latte e si nutre di te, cibo incorruttibile? E che uomo è, qualunque uomo, dal momento che è uomo. Ridano di noi i forti e i potenti, noi, deboli e impotenti, confessiamoci a te. In quegli anni insegnavo retorica. Vinto da bassi appetiti, vendevo l'arte di vincere cause con le chiacchiere. Preferivo tuttavia, tu lo sai, Signore, avere buoni allievi, buoni nel vero senso della parola, ai quali insegnavo senza inganno inganni capaci, se non di perdere un innocente, di salvare talvolta un colpevole. E tu, Dio, di lontano vedesti vacillare sul viscido e sfavillare in denso fumo la mia buona fede che io offrivo in quel magistero a persone che amavano la vanità e cercavano la menzogna. In quegli anni avevo una donna, non conosciuta in quel che si dice un legittimo matrimonio, bensì procacciata da un andare errabondo e sprovvisto di senno. Una sola, comunque, a cui ero fedele, come a una moglie, e in cui di persona feci prova dell'abisso che separa l'ordine del patto coniugale stretto al fine di procreare e l'intesa di un amore disordinato, ove pure nascono i figli, ma contro la volontà dei genitori, anche se poi, una volta nati, non si può non amarli. Ricordo anche che, avendo deciso di partecipare a un concorso di poesia drammatica, un certo aruspice mi fece chiedere quanto fossi disposto a pagare per assicurarmi la vittoria. Risposi che aborrivo e rifuggivo da quei suoi turpi incantesimi e che neppure se quella corona fosse stata d'oro immortale avrei consentito che si immolasse anche solo una mosca per la mia vittoria. Era chiaro, infatti, che egli s'apprestava ad ammazzare, nei suoi sacrifici, degli animali, pretendendo di propiziarmi in tal modo il favore dei demoni. ma anche quel delitto non lo rifiutai in nome della tua purezza, Dio del mio cuore. Io infatti non sapevo amarti, io che non sapevo concepire se non fulgori dotati di corpo. E un'anima che sospira dietro tali fantasie non si prostituisce forse lontano da te e poggia su falsità e pasce i venti? Di fatto, non volevo che a mio vantaggio si facessero sacrifici a quegli stessi demoni ai quali poi sacrificavo me stesso con la mia superstizione. Cos'altro significa pascere i venti, se non nutrire i demoni, cioè peccando, esser loro motivo di gioia e di scherno? Per le stesse ragioni non desistevo dal consultare disinvoltamente quei ciarlatani che noi chiamiamo matematici. Per divinare il futuro, mi dicevo, non praticano il sacrificio e non rivolgono preghiere agli spiriti. Anche costoro, tuttavia, la vera fede cristiana, con ragione, li respinge e condanna. Buona cosa è riconoscere il tuo nome, Signore, e dire: abbi pietà di me, guarisci la mia anima, poiché ho peccato contro di te, e non abusare della tua indulgenza come licenza a peccare, bensì ricordare le parole del Signore: eccoti guarito, non peccare più, se non vuoi che ti capiti di peggio. Salutare precetto che quelli che tentano di annientare completamente dicendo: dal cielo ti viene un'inevitabile causa di peccato, oppure è opera di Venere o di Saturno o di Marte, nel senso cioè che l'uomo sarebbe senza colpa, lui che non è che sangue orgogliosa putredine, e responsabile di tutto il creatore e ordinatore del cielo e delle stelle. E chi è mai costui, se non il nostro Dio, dolcezza e fonte di giustizia, che renderai a ciascuno secondo il suo operato e che non disprezzi un cuor contrito e umiliato? C'era a quel tempo un uomo sagace, medico espertissimo e famoso, che da proconsole aveva imposto di sua mano la corona vinta in quella gara poetica sul mio capo malato. Ma non lo aveva fatto da medico. Di quella malattia, infatti, sei tu il solo guaritore. Tu che resisti ai superbi e agli umili accordi la tua grazia. Eppure, anche per mezzo di quel vecchio, tu non mi sei venuto meno, né hai cessato di medicare la mia anima. Ero entrato con lui in una certa dimestichezza e prestavo un'attenzione vigile e continua ai suoi discorsi, che pur senza gran ricercatezza di parole erano insieme piacevoli e seri per vivacità di pensiero. E quando si rese conto, da un colloquio che avemmo, che ero dedito ai libri d'astrologia, con paterna benevolenza mi suggerì di gettarli via, evitando di dedicare senza scopo a quell'occupazione sciocca e inutile l'impegno e le energie necessari per quelle utili. Aggiunse anche che lui li aveva studiati, al punto da volerne fare nei primi anni della sua vita una professione vera e propria, di cui campare, e che se aveva capito Ippocrate poteva certamente capire anche quel genere di libri. E che se poi li aveva abbandonati per dedicarsi alla medicina era solo perché aveva scoperto che erano completamente falsi. E non aveva voluto, uomo serio com'era, guadagnarsi il pane imbrogliando il suo prossimo. «Ma tu», disse, «per farti un posto tra gli uomini possiedi la retorica e coltivi questo imbroglio per mera passione, non per necessità di denaro. A più buona ragione dovresti in tal materia fidarti di me, che ho cercato di impararla tanto perfettamente da volerne fare il mio unico sostentamento. Avendogli allora domandato come mai tanti responsi risultassero veritieri, mi rispose che dipendeva dal caso, così diffuso dovunque in natura. Consultando a caso le pagine di un poeta che canta e pensa tutt'altro, spesso vien fuori un verso meravigliosamente appropriato a quella certa questione. Nessuna meraviglia, dunque, sosteneva, se in virtù d'un istinto superiore l'anima umana, pur ignorando ciò che avviene in lei, risuona di qualcosa che s'adatta, non per arte, ma per puro caso, a fatti e atti di chi interroga. Anche questo insegnamento me lo hai fatto avere da parte sua o per suo mezzo, abbozzando nella mia memoria il disegno che io stesso avrei in seguito approfondito. Ma per allora né lui né il mio carissimo Nebridio, un giovane assai buono e accorto che non faceva che burlarsi d'ogni sorta di divinazione, riuscirono a convincermi a liberarmene, poiché l'autorità di quegli autori faceva maggior presa su di me e non ero ancora riuscito a trovare la prova certa che cercavo, che mi dimostrasse al di là d'ogni dubbio che quando i responsi degli astrologi consultati dicevano il vero, lo dicevano per caso o per ventura, e non per sapiente osservazione degli astri. In quegli anni avevo cominciato a insegnare nella mia città natale. M'ero fatto un amico che la comunanza degli studi mi rendeva particolarmente caro, un mio coetaneo e come me nel fiore della giovinezza. Con me era cresciuto da bimbetto e avevamo frequentato la scuola insieme e insieme giocato. Ma non mi era mai stato così amico, sebbene neppure allora si trattasse di una vera amicizia, poiché vera non è se non quando tu stesso la cementi tra persone che sono legate tra loro per opera dell'amore diffuso nei nostri cuori dallo Spirito Santo che ci è stato dato. Ma era dolce assai, maturata al calore degli studi comuni, al punto che, distogliendolo dalla vera fede che da ragazzo professava senza grande entusiasmo o profondità, l'avevo gettato in quei vaneggiamenti superstiziosi e rovinosi che facevano piangere mia madre. Delirava ormai la sua mente assieme alla mia, e la mia anima non poteva più fare a meno di lui. Ed ecco che tu, incalzando da presso chi fugge da te, Dio di vendetta e fonte insieme di misericordia, che in mirabil modi a te ci converti, ecco, lo strappasti da questa vita, quando appena da un anno durava la nostra amicizia, per me la più dolce di tutte le dolcezze della mia vita di allora. Chi potrebbe enumerare i tuoi meriti, anche solo quelli che hai esperito in sé solo? Cosa facesti allora, Dio mio, e quanto è insondabile l'abisso dei tuoi decreti? Caduto in preda alle febbri, egli giacque a lungo esanime in un sudore di morte e, poiché si era persa ogni speranza, fu battezzato in stato di incoscienza. Io non diedi peso alla cosa, nella persuasione che la sua anima avrebbe ritenuto ciò che aveva preso da me piuttosto che ciò che avveniva in un corpo privo di sensi. Ma andò in tutt'altro modo. Si riprese, infatti, e parve fuori pericolo. E subito, appena potei parlargli, ciò che avvenne assai presto, non appena fui in grado di farlo, non mi allontanavo mai da lui, tanto legati eravamo l'un l'altro. Tentai di scherzare con lui, convinto che anch'egli avrebbe fatto con me, su quel battesimo che aveva ricevuto in totale assenza di pensiero e di sensi. Ma lui già sapeva d'averlo ricevuto. E trasalì d'orrore, come davanti a un nemico, e mi avvertì, con sorprendente repentina libertà di giudizio, che se volevo restare suo amico, dovevo smetterla di parlargli a quel modo. Io allora, stupefatto e confuso, soffocai ogni reazione. In attesa che guarisse e riacquistate le forze, io potessi discutere con lui ciò che volessi. Ma fu strappato alla mia follia per potersi serbare in te alla mia consolazione. Qualche giorno appresso, in mia assenza, fu riassalito dalle febbri e morì. Un dolore che ottenebrò il mio cuore, e dovunque guardavo era la morte. E la mia patria era un tormento, e la casa paterna un'incredibile infelicità, e tutto ciò che con lui avevo condiviso senza di lui diventava immenso strazio. I miei occhi lo cercavano dappertutto, ma lui non c'era. E odiavo tutte le cose perché non lo avevano e non potevano dirmi: ecco, arriva, come quando viveva ed era assente. Ero diventato un grande enigma a me stesso e chiedevo alla mia anima perché fosse così triste e perché mi turbasse tanto. E non sapeva cosa rispondermi. E se le dicevo: spera in Dio, giustamente non mi obbediva, poiché l'uomo carissimo che aveva perduto era più vero e migliore del fantasma in cui le ordinavo di sperare. Solo il pianto mi era dolce e aveva preso il posto del mio amico nella delizia del mio cuore. E ora, Signore, tutto è passato e il tempo ha lenito la mia ferita. Posso udire da te, che sei la verità, accostando l'orecchio del mio cuore alla tua bocca, perché il pianto è così dolce agli infelici? Oppure, pur essendo dovunque, hai respinto lontano da te la nostra infelicità e tu rimani in te stesso mentre noi rotoliamo da una prova all'altra? E tuttavia, se non piangessimo alle tue orecchie, non ci rimarrebbe più alcun residuo di speranza. Da dove viene allora che dall'amaro della vita cogliamo il dolce frutto di gemere, piangere, sospirare, lamentarci? Viene forse da questo la dolcezza che speriamo che tu ci ascolti? Così è certamente per le preghiere, poiché esse desiderano di arrivare sino a te. Ma può essere altrettanto per il dolore della perdita e per il lutto che a quel tempo mi opprimeva? Non speravo affatto che lui tornasse in vita, né questo chiedevo con le mie lacrime, ma semplicemente soffrivo e piangevo. Ero infatti infelice e avevo perso ogni gioia. O è invece il pianto cosa amara che diletta a causa del disgusto che proviamo per ciò di cui un tempo abbiamo goduto e che ora disprezziamo? Ma perché dico questo? Non è il momento adesso di far domande, bensì di confessarsi a te. Ero infelice, e infelice è ogni animo avvinto da passioni di cose mortali, che è dilacerato quando le perde e solo allora avverte l'infelicità di cui era infelice anche prima di averle perdute. Tale ero io a quel tempo e piangevo amarissimamente e nell'amarezza riposavo. A tal punto ero infelice e l'infelice vita mia stessa m'era più cara di quell'amico. Volevo sì mutarla, ma non perderla in sua vece. E non so se avrei fatto per lui quel che si narra di Oreste e Pilade, ammesso sia vero, che volevano morire l'un per l'altro perché per loro peggiore della morte era il non vivere insieme. ma era nato in me anche un non so quale sentimento opposto, e avevo insieme un insopportabile tedio di vivere e la paura di morire. Quanto più lo amavo, credo, tanto più la morte che me lo aveva tolto odiavo e temevo come ferocissima nemica, e la pensavo capace di annientare in un attimo tutti gli uomini se era stata capace di farlo con lui. Ero proprio in questo stato, me lo ricordo. Ecco il mio cuore, Dio mio, eccolo aperto, guardaci dentro, attraverso il mio ricordo, speranza mia, che mi mondi dalla sozzura di tali sentimenti, volgendo i miei occhi verso di te e liberando dal laccio i miei piedi. Mi meravigliavo che gli altri mortali vivessero dopo che era morto colui che avevo amato quasi fosse immortale, e mi meravigliavo ancor più che, essendo io un secondo lui stesso, lui fosse morto e io ancora vivo. Ha ben detto qualcuno del suo amico che era la metà dell'anima sua. Io sentivo infatti che la mia anima e la sua erano state un'anima sola in due corpi, e perciò mi faceva orrore la vita, perché non volevo vivere a metà, e perciò forse temevo di morire, perché non morisse per intero colui che avevo tanto amato. Oh, follia, incapace di amare gli uomini umanamente. Oh, stolto uomo insofferente dei limiti delle cose umane, come ero io a quel tempo. Ecco perché ribollivo, sospiravo, piangevo, mi turbavo e non avevo né pace né consiglio. Portavo infatti un'anima spezzata e sanguinante, che non sopportava d'essere portata da me e non trovavo dove posarla. Non in ameni boschetti, non in giochi e canti essa trovava pace, non in luoghi soavemente olezzanti, né in lauti conviti, non nei piaceri del letto e della tavola, non infine nei libri e nella poesia. Tutto mi faceva orrore, persino la luce. E qualsiasi cosa non fosse lui, m'era insostenibile e fastidiosa, eccetto il gemito e il pianto. In essi solo trovavo un po' di requie. Ma non appena l'anima mia ne veniva distolta, m'opprimeva come un gran fardello di infelicità. A te, Signore, avrebbe dovuto sollevarsi, da te essere curata, lo sapevo, ma non volevo né potevo, soprattutto perché per me non eri nulla di solido e fermo quando ti pensavo. Non eri tu, infatti, ma un vano fantasma, e il mio errore era il mio Dio. Se tentavo di posarla lì, perché riposasse, scivolava via nel vuoto e ricadeva su di me, e io ero rimasto a me stesso un luogo di infelicità, dove non potevo stare né allontanarmi. Dove, infatti, avrebbe potuto il mio cuore sfuggire al mio cuore? Dove io sfuggire a me stesso? Dove non avrei potuto seguire me stesso? E tuttavia, fuggii dalla mia patria, poiché i miei occhi lo cercavano meno dove non erano soliti vederlo. E da Tagaste andai a Cartagine. Il tempo non perde tempo e non s'aggira oziosamente per i nostri sensi. Mirabili opere compie nel nostro animo. Ecco, veniva e passava di giorno in giorno, e venendo e passando mi inoculava altre speranze, altri ricordi, a poco mi restituiva le antiche forme di piacere, mentre quel mio dolore perdeva terreno. Ma subentravano, se non altri dolori, altre cause di dolore. Perché mai, d'altronde, Quel dolore m'era entrato tanto facilmente, tanto a fondo, se non perché avevo affondato la mia anima nella sabbia, amando un uomo destinato alla morte come se non lo fosse. Soprattutto mi giovavano e rinfrancavano le attenzioni di altri amici, coi quali amavo ciò che amavo in tua vece, vale a dire un'immensa favola e lunga menzogna che con i turpi sfregamenti delle pruriginose orecchie corrompeva la nostra mente. E quella favola per me non moriva nemmeno se moriva un mio amico. Altre cose c'erano in loro che mi catturavano anche di più: conversare, ridere, scambiarsi amabili cortesie, leggere insieme libri dalla parola seducente, insieme scherzare, a vicenda onorarsi, dissentire talvolta senza astio, come si fa con se stessi, e con tali rarissimi dissensi insaporire i frequenti consensi, fare un po' il maestro è un po' l'allievo, desiderare chi è assente con discrezione, accogliere chi arriva con gioia. Di questi e con simili segni che dal cuore di chi ama ed è riamato si trasmettono attraverso il volto, la lingua, gli occhi e mille gratitissimi gesti, servirsi come esca per fondere insieme le anime e farne di molte una sola. È questo che si ama negli amici. E lo si ama al punto che la coscienza si sente in colpa se non ama chi la riama o non riama chi la ama, nient'altro chiedendo al corpo dell'amato se non qualche segno di affetto. Di qui il lutto alla morte di un amico e le tenebre del dolore e il cuore madido di una dolcezza mutata in amarezza, e dalla vita perduta di chi muore, la morte di chi resta in vita. Beato chi ama te, e l'amico in te, e il nemico per te, perché il solo che non perda chi gli è caro è colui al quale tutti sono cari in colui che non si perde. E chi è questi se non il nostro Dio, il Dio che ha fatto il cielo e la terra e li colma, perché colmandoli li ha fatti. Nessuno ti può perdere se non chi ti abbandona, e chi ti abbandona dove va e dove fugge se non dalla tua benevolenza alla tua collera? Dove infatti non troverà la tua legge in fondo alla propria pena? E la tua legge è verità, e la verità sei tu. Dio delle virtù, volgici a te e mostraci il tuo volto e saremo salvi. Poiché dovunque si volga l'anima dell'uomo, dovunque, tranne che in te, trova dolore, per belle che siano le cose che trova al di fuori di te e di se stessa. Tali, infatti, neppure sarebbero se non venissero da te. Nascono e muoiono, e nascendo cominciano a essere, e crescono per giungere a perfezione, e giunte a perfezione invecchiano e muoiono. Forse non tutte invecchiano, ma tutte muoiono. Quando dunque nascono e cercano di essere, quanto più celermente crescono per essere, tanto più s'affrettano a non essere. Questa è la loro legge. Questo hai concesso loro, poiché son parti di cose che non sono tutte insieme, ma tutte, cedendo e subentrando le une alle altre, formano l'universo di cui sono parti. È appunto così che si attua il nostro discorso tramite segni sonori. Se non ci sarebbe infatti alcun discorso, se una parola, una volta emessi i suoi suoni, non si tirasse indietro per far posto a un'altra. Ti lodi per queste cose, l'anima mia, Dio, creatore dell'universo, ma in esse non resti impigliata col vischio di un amore dei sensi del corpo. Esse vanno infatti dove vanno sempre, per non essere più, e la dilaniano con desideri ammorbanti, giacché lei, l'anima, vuole essere e ama riposare tra le cose che ama. Ma in esse non c'è posto per farlo, perché non ci restano, fuggono. Ma chi può tener dietro loro coi sensi del corpo? O chi può controllarle quando anche fossero a tiro? Tardo è infatti il senso della carne, perché è senso della carne. Questo è il suo limite. Basta allo scopo per cui è stato fatto, non basta ad altro scopo. A trattenere cose che trascorrono in un inizio determinato a una determinata fine. Dalla tua stessa parola con cui sono state create si sentono dire da qui fino a qui. Non essere vana, anima mia, e non assordare l'orecchio del cuore col frastuono della tua vanità. Ascolta anche tu, è la parola che ti grida di tornare, e quello è il luogo della quiete imperturbabile, dove l'amore non è abbandonato se non abbandona. Ecco, quelle cose se ne vanno per lasciare il posto ad altre e perché quest'infimo universo risulti costituito di tutte le sue parti. Vado forse io in qualche altro luogo, chiede la parola di Dio? In Lui fissa la tua dimora, a Lui affida tutto ciò che da Lui ti viene, anima mia, finalmente stanca di inganni. Alla verità affida tutto ciò che viene dalla verità e non perderai nulla e rifioriranno le tue carni incancrenite e tutte le tue debolezze guariranno, i tuoi vacillamenti si rinsalderanno e si rinnoveranno e saranno legati stretti e non ti trascineranno giù nella caduta ma saranno con te e resteranno presso il Dio che sempre sta e resta. A che scopo, traviata, segui la tua carne? È lei che deve seguire te, che ti sei convertita. Qualsiasi cosa tu gusti per suo mezzo è solo parte. L'insieme di cui è parte tu l'ignori, eppure anche così ne trai piacere. Ma se il senso della tua carne fosse in grado di comprendere il tutto e non fosse stato giustamente limitato per punirti a una parte del tutto, tu vorresti che tutto ciò che attualmente è passasse per poter godere maggiormente del tutto. Anche quando parliamo, senti proprio grazie a quel medesimo senso della carne e non vuoi certo che le sillabe restino ferme, ma scorrano via e ne vengano altre e tu possa sentire tutto il discorso. Così, sempre, quando le parti di cui è fatto un intero non coesistono tutte simultaneamente, l'insieme piace di più delle singole parti, se è possibile coglierlo nella sua unità. Ma di gran lunga meglio di questo è colui che questo ha creato, ed è il nostro Dio, e non passa, poiché niente gli subentra. Se ti piacciono i corpi, loda Dio per essi e rivolgi il tuo amore al loro artefice, affinché in ciò che ti piace non sia tu a dispiacergli. Se ti piacciono le anime, amale in Dio, poiché anch'esse sono mutevoli e in Lui si fissano stabilmente, altrimenti se ne andranno e periranno. Amale dunque in Lui e rapisci fino a Lui tutte quelle che puoi e di loro amiamolo, è Lui che ha fatto queste cose e non è lontano, giacché non le ha fatte e poi se n'è andato, ma da Lui fatte in Lui sono. Ecco dove Egli è, dov'è la verità a sapore. Egli è in intimità col nostro cuore, ma il nostro cuore lo ha abbandonato. Tornate al vostro cuore, prevaricatori, e stringetevi a Lui che vi ha creato. State con Lui e starete saldi. Riposate in Lui e avrete pace. Dove andate per quei cammini dirupati? Dove andate? Il bene che amate viene da Lui, ma solo in rapporto a Lui è dolce e buono. Amaro, invece, giustamente, se lo si abbandona per amare ingiustamente qualsiasi cosa che da Lui proviene. A che scopo continuate a camminare? Ancora e ancora, per vie aspre e faticose. Non c'è pace lì dove la cercate. Cercate quel che cercate, ma esso non è dove lo cercate. Cercate una vita beata in un luogo di morte. Non è lì. Come può esservi vita beata dove non c'è neppure vita? E discese quaggiù la nostra vita, e si prese la nostra morte, e l'uccise con la sua sovrabbondanza di vita, e tuonò gridandoci di tornare a lui, in quel luogo segreto da cui venne a noi, dapprima in quel virginale utero nel quale sposò la creatura umana, carne mortale, affinché non restasse per sempre mortale, e dal quale, come sposo che esce dal suo talamo, si lanciò con balzo da gigante a correre gioioso la sua via. Non s'attardò, infatti, ma corse, gridando con parole, atti, morte, vita, discesa e ascesa, gridando che tornassimo a lui. E s'allontanò dagli occhi, perché rientrassimo nel cuore e ve lo ritrovassimo. Se n'è andato, eppure eccolo, è qui. Non è voluto stare a lungo con noi, ma non ci ha abbandonati. Si è ritirato, infatti, là dove non si era mai allontanato, poiché il mondo è stato creato per opera sua. E in questo mondo era, e in questo mondo è venuto per la salvezza dei peccatori. A lui si confessa la mia anima, e a lui, e lui la guarisce, perché è contro di lui che essa ha peccato. Figli dell'uomo, fino a quando questo peso sul cuore? Dopo che la vita è discesa, non volete salire e vivere? Ma dove potete salire dal momento che siete già in alto e avete posto la vostra bocca in cielo? Scendete per risalire, risalire a Dio, poiché salendo contro Dio siete caduti. Di loro queste cose, anima mia, affinché piangano nella valle delle lacrime, e in tal modo rapiscili fino a Dio, poiché queste cose le dici loro ispirata dal suo spirito, se le dici bruciando nel fuoco della carità. Questo allora non lo sapevo, e amavo le bellezze inferiori, e andavo verso l'abisso e dicevo ai miei amici: non amiamo forse altro che le cose belle? Ma cos'è una cosa bella? E cos'è la bellezza? Cos'è che ci attrae e ci lega a ciò che amiamo? Se non avessero proprietà e bellezza, non ci attirerebbero affatto. E m'accorgevo e vedevo che nei corpi stessi una cosa è, diciamo, il tutto, che è ciò che li rende belli, un'altra ciò che li fa appropriati, per cui s'adattano ad altro, come una parte del corpo al suo insieme, o un calzare al piede, e simili. Tale riflessione scaturiva nel mio animo dal profondo del mio cuore. E scrissi un trattato del bello e del conveniente. Mi pare in 2 o 3 libri. Tu lo sai, Dio. A me è uscito di mente. Non li possiedo più, infatti. Si sono persi, non so come. Cosa fu, dunque, a spingermi, Signore Dio mio, a dedicare quei libri a Gerio, un oratore dell'urbe romana? Non lo conoscevo di persona, ma lo amavo per la fama chiarissima della dottrina, e alcuni suoi detti m'erano stati riferiti e m'erano piaciuti. Ma ancor più mi piaceva perché piaceva agli altri, e lo colmavano di lodi, stupefatti che un siriano, già esperto in eloquenza greca, fosse poi diventato mirabile dicitore anche in quella latina e avesse profondissima competenza in ogni settore della filosofia. Uno è lodato, e pur se assente, è amato. Si trasmette forse tale amore dalla bocca di chi loda al cuore di chi ascolta? No, di certo. E semmai l'amore di un altro che ne accende un altro. Si ama, infatti, chi è lodato, quando si giudica non fallace il cuore di chi loda, cioè quando lo loda chi lo ama. Così dunque allora amavo gli uomini secondo il giudizio degli uomini e non secondo il tuo, Dio mio, in cui nessuno è ingannato. E tuttavia perché non amavo come s'ama un auriga famoso o un cacciatore da circo in gran fervore presso il popolino, ma in modo di gran lunga diverso, più profondo, come io stesso avrei voluto essere lodato? Non avrei affatto voluto essere lodato come un attore, per quanto fossi il primo a lodarli e amarli, preferendo io restare nell'ombra che essere noto in quel modo, e piuttosto d'essere odiato che essere amato in quel modo. Come si distribuiscono in un'anima sola amori di peso tanto vario e diverso? Cos'è che io amo in un altro e che non detesterei e respingerei da me solo se non l'odiassi, dal momento che siamo uomini entrambi? Un buon cavallo può essere amato da uno che tuttavia non vorrebbe esserlo, pur potendo. Ma non così si dovrebbe dire di un attore che condivide la nostra stessa natura. Amo io dunque in un uomo ciò che aborrirei di essere pur essendo uomo? Grande l'abisso è l'uomo a se stesso, del quale tu conosci, Signore, perfino il numero dei capelli e neppure uno cade a tua insaputa, e tuttavia è più facile contare i suoi capelli che i suoi sentimenti e i moti del suo cuore. Ma quel retore apparteneva a un genere di persone che amavo al punto da voler essere come loro, ed ero preda della superbia e in balia ad ogni vento, e così nascostamente eri tu che mi guidavi. Ma come posso sapere e confessarti con certezza che lo amavo più per l'amore di chi lo lodava che per le cose di cui lo si lodava? Perché se quelle stesse persone, anziché lodarlo, lo avessero criticato, e nel criticarlo e disprezzarlo avessero riferito di lui quelle stesse identiche cose, e non mi sarei io affatto acceso ed entusiasmato per lui, e certamente i fatti sarebbero rimasti gli stessi, e stesso l'uomo, diversi soltanto i sentimenti di chi ne parlava. Ecco come può ridursi un'anima inferma, non ancora ben piantata sul fondamento della verità. Secondo come spira il soffio delle parole dal petto di chi crede di sapere, essa si lascia trascinare e rivoltare, torcere e ritorcere, e le si offusca la vista e non riesce più a scorgere la verità. Eppure essa è proprio davanti a noi. Era dunque per me gran cosa riuscire a far conoscere il mio stile, i miei lavori a quell'uomo. Se li avesse apprezzati, ne sarei stato ancor più infiammato, ma se li avesse criticati, ne sarei stato ferito al cuore mio vano e sprovvisto del tuo sostegno. E tuttavia quel mio scritto del bello e del conveniente a lui dedicato occupava volentieri i miei pensieri sotto lo sguardo continuo della mia contemplazione e lo ammiravo anche senza il conforto di nessuno. Ma di tanta immensità non riuscivo ancora a cogliere il cardine nella tua arte, o onnipotente, che solo compi cose mirabili e il mio animo si aggirava tra le forme corporee e definivo bello ciò che ha in sé la propria armonia e conveniente ciò che trae la propria armonia dalla relazione con qualcos'altro, e distinguevo sottilmente, comprovavo con esempi corporei. Di lì passavo alla natura dell'anima, ma il falso concetto che avevo delle cose spirituali mi impediva di scorgere la verità. Con tutte le sue forze la verità mi balzava agli occhi, ma io distoglievo il mio pensiero palpitante dalle cose incorporee, volgendolo ai contorni, ai colori, alle grandezze percepibili. E poiché non riuscivo a vederle nel mio animo, ritenevo di non poter vedere il mio animo. E poiché nella virtù amavo la pace, nel vizio odiavo la discordia. In quella riconoscevo un'unità, in questo una certa divisione. In quell'unità mi sembrava risiedesse la mente razionale e la natura della verità e del sommo bene. In questa divisione, invece della vita irrazionale, qualcosa come la sostanza stessa e la natura del sommo male, e sciagurato com'ero, la credevo non solo una sostanza, ma addirittura una forma di vita. Nonostante non provenisse da te, Dio mio, da cui tutto proviene. E la prima la chiamavo monade, una sorta di intelligenza assessuata, la seconda diade, cioè ira nei delitti e libidine nelle dissolutezze, senza sapere quel che dicevo. Non sapevo infatti né avevo imparato che il male non è affatto una sostanza e che la mente nostra non è il bene sommo e immutabile. Come infatti c'è il crimine, se quel particolare moto dell'animo che genera impulso ad agire è corrotto e s'abbandona alla prepotenza e al furore, e c'è il vizio, se quella particolare inclinazione dell'animo che alimenta i piaceri carnali è senza più freno, così gli errori e le false opinioni contaminano la vita e se la mente razionale è lei stessa corrotta. Com'era allora in me, che ignoravo che un'altra luce deve illuminarla perché sia partecipe della verità. Non essendo essa stessa sostanza di verità, poiché tu darai luce alla mia lucerna, Signore mio Dio, illuminerai le mie tenebre e alla tua pienezza tutti noi abbiamo attinto. Sei tu, infatti, la vera luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo, poiché in te non vi è mutamento né momentaneo oscuramento. Io tendevo a te e ne ero respinto, affinché assaporassi la morte, poiché tu resisti ai superbi. E cosa c'era di superbo, di più superbo del dichiarare con follia inaudita d'essere io per natura ciò che tu sei? Essendo io mutevole, ciò che del resto mi era perfettamente chiaro dal momento che desideravo essere sapiente per diventare da peggiore migliore. Preferivo pensare te mutevole piuttosto che me diverso da ciò che tu sei. Così mi respingevi e resistevi alla mia cocciuta millanteria. E io immaginavo forme corporee e carne, accusavo la carne e soffio vagante non tornavo ancora a te, e vagando vagavo in mezzo a cose che non sono né in te, né in me, né nel corpo, né mi venivano da un atto della tua verità, ma erano immaginate dalla mia vanità, muovendo dal corpo, e dicevo ai tuoi piccoli, tuoi fedeli, e miei concittadini, dai quali mi esiliavo senza saperlo, dicevo loro garrulo e ottuso, come può sbagliare l'anima se è creatura di Dio? E non volevo che mi si ribattesse, ma Dio come può sbagliare? E preferivo sostenere che la tua sostanza immutabile potesse essere costretta a sbagliare piuttosto che riconoscere che la mia mutevole potesse spontaneamente deviare e per punizione sbagliare. Avevo forse 26 o 27 anni quando scrissi quei volumi, rimuginando quelle fantasticherie corporee che m'assordavano le orecchie del cuore, che io invece tendevo, dolce verità, verso la tua melodia interiore, riflettendo sul bello e il conveniente, e bruciando dal desiderio di stare al tuo cospetto e ascoltarti gioiosamente gioire della voce dello sposo, e non potevo, poiché le voci del mio errore mi trascinavano fuori e precipitavo nell'abisso sotto il peso della mia superbia. Non davi, infatti, al mio udito gioia e letizia, né esultavano le mie ossa, che non erano state ancora umiliate. E a cosa m'era servito? All'età di 20 anni aver letto e capito da solo certi scritti d'Aristotele che mi erano capitati tra mano, le cosiddette 10 categorie. Un nome che al sentirlo, quando il retore di Cartagine, mio maestro e altri che avevano nomea di dotti, lo pronunziavano con bocche ricolme di superbia, io restavo a bocca aperta, come in adorazione di non so che, di grande e divino. Quando poi ne avevo discusso con gente che sosteneva di averle capite a fatica, con l'aiuto di maestri ferratissimi, che si erano serviti non solo di parole, ma anche di molte figure tracciate nella polvere, non ne avevo ricavato niente di più di quanto non avessi capito da solo nel leggerle. Mi pareva abbastanza chiaro che l'opera trattava delle sostanze, ad esempio l'uomo, e delle proprietà, ad esempio la forma esteriore, la statura, di quanti piedi, la parentela, di chi sia fratello, o dove risieda e quando sia nato, e se stia in piedi o seduto, calzato o armato, faccia o subisca qualcosa, e tutte le innumerevoli proprietà riconoscibili nelle 9 categorie che ho testé esemplificato, o nella categoria stessa di sostanza. A cosa mi era servito tutto questo? Ma aveva anzi nuociuto, poiché, ritenendo che in queste 10 categorie rientrasse tutto ciò che è, cercavo di capire anche te, Dio mio, meravigliosamente semplice e immutabile, come se fossi soggetto alla tua stessa grandezza e bellezza, quasi che tali proprietà fossero in te come in un qualcosa di soggetto qual è il corpo. Mentre tu sei tu stesso la tua grandezza e bellezza. Laddove il corpo non è grande e bello in quanto corpo, giacché anche se fosse meno grande e meno bello, non per questo sarebbe meno corpo. Falsità era dunque ciò che di te pensavo, non verità, farneticazioni della mia miseria, non certezze della tua beatitudine. Avevo infatti ordinato, e così accadeva anche a me, che la terra mi partorisse spine e tormenti e con fatica mi guadagnassi il pane. E a cosa m'era servito aver letto da solo e capito tutti i libri che mi fosse riuscito sulle cosiddette arti liberali, servo sciaguratissimo qual ero a quel tempo di cattive passioni? Io mi divertivo a leggerli, ma ignoravo l'origine prima del vero e del certo che racchiudevano. Volgevo infatti le spalle alla luce e il viso alle cose illuminate, cosicché il viso col quale vedevo le cose illuminate non era illuminato. Tutto ciò che capii, senza gran difficoltà e senza nessun altro che mi aiutasse, sull'arte di dire, d'argomentare, sulla geometria, sulla musica, tu lo sai, Signore Dio mio, poiché la prontezza dell'intelletto e l'acutezza del discernimento sono tuo dono. Ma io non te li offrivo in sacrificio. Di fatto, tornavano più a mio danno che a mio vantaggio, poiché feci di tutto per tenermi stretta la parte migliore della mia sostanza, ma non conservavo presso di te la mia forza, bensì ti lasciai, muovendo per una regione remota, per dissiparla in meretrice passioni. A cosa mi serviva, infatti, questo bene se non sapevo servirmene bene? Giacché non mi rendevo conto che quelle arti faticano a essere capite anche da chi fosse studioso e dotato, se non quando cercavo di spiegarle loro, e il più bravo era chi era meno lento a seguire la mia spiegazione. Ma a che mi serviva tutto questo, convinto com'ero che tu, Signore, Dio, verità, fossi un corpo luminoso e immenso e io una particella di tale corpo? Colossale stravolgimento! Ma così ero, e non arrossisco, mio Dio, di confessarti gli atti della tua misericordia verso di me e di invocarti. Io che allora non arrossii di confessare agli uomini le mie bestemmie e di abbaiare contro di te. A che cosa m'era servita un'agile intelligenza per tutte quelle scienze e tanti intricatissimi libri districati senza l'aiuto d'animo umano, dal momento che nella dottrina della tua fede erravo con mostruosa sacrilega infamia. E come avrebbe potuto nuocere ai tuoi piccoli un'intelligenza anche molto più lenta, dal momento che non si allontanavano da te per poter mettere le piume al sicuro nel nido della tua chiesa e nutrire le ali della carità col cibo d'una sana fede. Oh Signore Dio nostro, speriamo nella copertura delle tue ali. Tu proteggici e portaci. Tu ci porterai. Tu ci porterai da piccoli e fin da vecchi ci porterai, poiché la nostra forza, quando è tua, allora è forza, quando è nostra, è debolezza. Vive sempre accanto a te, mio bene, e poiché ci siamo allontanati, siamo diventati cattivi. È tempo che ci volgiamo a te, Signore, per non essere travolti, poiché vive accanto a te indefettibile il bene nostro, che sei tu stesso, e non temiamo di non avere dove tornare, poiché è da lì che siamo precipitati. Non crolla in nostra assenza la nostra casa, la tua eternità.